storie italiane. La scatola di latta. Molto tempo fa visse un soldato. Era un uomo giovane e affascinante. Un giorno stava tornando a casa da una guerra, grato di essere vivo. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Continuò con il suo passo, con la spada al suo fianco. Poi, all'improvviso, sulla strada vide una strega davvero terrificante. Buonasera, soldato! Che spada bella e che zaino grande che hai! Buonasera! È molto gentile da parte tua, vecchia strega! Il labbro della strega tremò e il soldato si spaventò. Era davvero agitato dall'orribile aspetto della strega. Sei proprio un vero soldato? Con la tua borsa e la tua spada? Ti si potrebbe scambiare per un nobile nato! Dimmi la verità, non ti piacerebbe avere tutti i soldi che vuoi? Sì, ma come? La strega lo adulò e lui si riempì di orgoglio, senza rendersi conto che si sarebbe invece dovuto preoccupare. Lei indicò un albero alla fine del bosco e gli disse di guardare. Il grande albero puoi vedere? Al suo interno è cavo come un paniere e dalla cima della sua cavità puoi scivolare fino all'altra estremità. L'albero? Ma cosa farò dentro l'albero? Sì, l'albero. Una volta entrato, ad una corda verrai legato. Ti tirerò indietro quando me lo dirai. Perché dentro l'albero vi è tanto oro. Dubitarne non dovrai. Il soldato però dubitò e il sopracciglio sollevò. C'è oro nell'albero? Ma come? La strega cominciò a spiegare tutto. Una volta dentro, una sala illuminata da lanterne troverai. Tre porte vedrai e aprirle tu dovrai. Nelle serrature le chiavi troverai. E nella prima stanza, sai cosa vedrai? Un gran baule al centro. Ma fai attenzione al cane che ti verrà incontro. Cani, dici? Il soldato era ora curioso. Il cane ha gli occhi molto grandi, ma temere non dovrai, una sorpresa riceverai. La strega tirò fuori uno straccio blu. Questo ti proteggerà, disse lei con un sorriso. Metti il cane sopra questo e sarà impegnato all'improvviso. La strega continuò a spiegare il suo piano. E come di monete di rame e d'argento tutto fosse pieno. Ma attenzione al cane che alle calcagna ti starà. I suoi enormi occhi di dosso non ti toglierà. Ripeté che lo straccio lo avrebbe aiutato e le monete per sé avrebbe accumulato. Il soldato era contento e così fra sé pensò: questo non è affatto male, davvero non lo è. Ma qualcosa darti dovrò. Dovrei pur volere qualcosa per te. Tutto ciò che desidero è una scatola di latta. La mia nonna l'ha dimenticata l'ultima volta che c'è stata. Allora dai, lega la corda intorno alla mia vita. Quindi la strega la corda legò e lui salì sull'albero e lentamente il suo viso girò. Giù nell'albero scivolò e in una sala piena di lanterne arrivò. Camminò e camminò e davanti al baule un cane trovò. Sei molto carino. Il soldato lo sollevò e lo mise a fare un pisolino. Sullo straccio si sdraiò e lui nemmeno abbaiò. È stato facile. Il soldato attorno si guardò. Nella sua borsa le monete infilò e per far felice la strega nell'altra stanza si recò. proprio come lei aveva detto, c'era un cane con occhi molto grandi, così grandi da lasciarlo stupefatto. Egli prese il cane e lo mise sullo straccio. Ma quando aprì il cesto, volle di più. Quando il soldato vide che l'argento era nel cesto, il rame più non volle di certo. L'argento è meglio del rame! Il soldato svuotò la borsa del rame trovato e la riempì con tutto l'argento che aveva trovato. Oh! In effetti il cane era molto più grande del previsto, con occhi così grandi che non aveva mai visto. Prese il cane e sullo straccio lo mise. Aprì il baule e fra sé pensò di essersi molto sbagliato. Oro? Oro! C'era così tanto oro. Così l'argento scartò, lasciando alle spalle il vecchio, e la borsa riempì con l'oro che era perfetto. Tirami su! Quando vide la sua scatola, la strega in alto lo tirò. E quando fu arrivato, di strappargliela di dosso, tentò. Di questa vecchia scatola cosa ne farai? A te proprio non lo direi! Dimmi o altrimenti... Ah! No! Mi hai tradito! Ah, mai più, vecchia strega! Il soldato quel giorno in città andò. Le migliori stanze, il cibo più buono, tutto il meglio per sé comprò. Ora il soldato era un vero gentiluomo. Della città le notizie la gente gli diceva. Anche riguardo al re ed a che bella figlia quest'ultimo aveva. Posso andare a vederla? Certo che no, non puoi. Il re non lasciava a nessuno vederla. In un grande castello lei viveva. Perché? Un soldato nel futuro di sua figlia il re ha visto e questa idea ha trovato fuori posto. Non posso capire perché un soldato non possa andare. Il soldato era ricco grazie alla sua fortuna, ma i soldi uscivano e basta dalla sua tasca. E a causa del suo irresponsabile comportamento, più nulla era rimasto. Quindi in una piccola soffitta si trasferì. Si sedette nella sua soffitta e i suoi stivali cucì. Era buio in quella stanza, ma anche una candela comprare non poteva. Io così non posso farcela. Ma poi si ricordò della scatola così sottile e piccola e si ricordò del ceppo di legno così sottile e piccolo. Nella luce può fare e la notte posso passare. Quindi la scatola aprì, cercò di accendere una fiamma e proprio mentre ci provava un cane di colpo comparì. Con occhi grandi come dischi, in cerca di attenzione si fermò. Cosa comanda il mio maestro? Il suo aiuto gli offrì. Chiedo scusa, cosa vuoi dire? Sono a tua disposizione, a tutto dovrò ubbidire. Qualsiasi cosa io desideri, qualsiasi cosa davvero? Il soldato era sbalordito, ci pensò su e disse emozionato. Vai cagnolino e portami dei soldi! Il cane scomparve e quando tornò, una borsa piena di monete portò. Così il soldato alla vecchia vita tornò, con oro e molti diamanti, ma solo si sentiva, una moglie lui voleva. So che è piena notte, ma la principessa voglio vedere, il desiderio è tanto forte. Prima che il soldato le ciglia potesse battere, il cane era tornato e la principessa con sé aveva portato. Sul pavimento addormentata giaceva. Al soldato tanto piaceva. Il giorno seguente, dopo il piano del soldato, la principessa disse che qualcosa aveva sognato. Che cosa hai sognato? C'era un cane e un soldato, e mentre dormivo, lui mi ha baciato. Proprio un sogno e niente di più. Il re preoccupato la fronte corrugò. Una balia mise a vigliare per vedere se di un sogno si parlava o di qualcuno che tramava. Il soldato desiderava vederla una volta ancora, così al cane disse di portarla nella sua dimora. Il cane in un attimo la principessa afferrò, senza sapere che la balia lo notò. Lei le scarpe si infilò e fino in città dietro al cane andò. Ora che so che questo non è un sogno, per tenerla lontana da questo progetto, sulla porta col gesso farò un segno. E la balia fece ciò che doveva. Quando il cane capì il suo piano intelligente, su ogni porta un segno fece anche lui, attentamente. La mattina presto il re e la regina, la balia e tutti gli ufficiali andarono a vedere dove era stata la principessa. È così? È in quella locanda? No, da quella parte, mio caro marito. C'erano così tante croci su ogni casa che tutti i soldati e guardie furono confusi. Ma la regina era intelligente e aveva cucito un sacchetto di grano sulla schiena della figlia. Il grano era caduto, mostrando dove fosse la principessa. Eccola! La regina alle tracce di grano indicò. Le guardie in una casa entrarono. E un uomo arrestarono. Per i suoi crimini fu condannato a morte e prima di andarsene tirò un sospiro forte. È consuetudine lasciare al peccatore un ultimo innocente desiderio. Io vorrei accendere un bel fuoco. Il re questo non gli negò. Il soldato prese la sua scatola ed un tratto il cane arrivò. Il cane apparve e si mise seduto. Il soldato sorrise. Sapeva che sarebbe venuto. Sapevo che saresti venuto. È vero. Dicono che il cane è il miglior amico dell'uomo. Il cane abbaiò al consiglio e tutti corsero via. Il re e la regina provarono a correre, ma il cane non glielo lasciò fare. Sei un mago malvagio. Cosa? Che razza di cane è questo? Vostra maestà, per favore mi lasci spiegare. Non sono una persona malvagia, sono semplicemente innamorato di sua figlia. Confesso che ho usato la scatola per prendere la principessa, ma non intendo fare alcun danno. Una scatoletta? Sì, vostra maestà. Una vecchia strega la desiderava, ma pensando che l'avrebbe usata per qualcosa di sbagliato, l'ho sconfitta e ho ottenuto la scatoletta per me. Prometti di rendere felice mia figlia senza l'aiuto della tua scatoletta? Il re e la regina videro il vero amore nei suoi occhi. La principessa sorrise convinta che lui fosse l'uomo per lei. Tanto coraggio aveva dimostrato, direi. Prometti di rendere felice mia figlia senza l'aiuto della tua scatoletta? Sarò io la sua scatola magica. Lavorerò sodo e realizzerò ogni suo desiderio. Distruggerò questa scatola in questo istante. E così il soldato divenne il sovrano e visse una bella vita con sua moglie e il cane magico.